con il fotografo Valerio Vispuri per parlare del libro Prigionieri, in uscita per Contrasto Edizioni il 29 agosto 2019. Valerio, ben trovato. Salve, salve a tutti, grazie. Cos'è questo libro? Ci racconti? Questo è un libro che è un po' un secondo capitolo rispetto al primo libro Encerrados, che è uscito 5 anni fa sulle carceri sudamericane, e questo è invece un viaggio nelle carceri italiane, che è nato proprio dopo Encerrados. È nato in una maniera molto particolare, perché presentai il libro delle carceri sudamericane a Foggia Reale. E i detenuti mi dissero a gran voce: ma perché non vieni a fotografare le nostre carceri? E da là è nata un po' l'idea, all'inizio solo con Poggio Reale, poi si è sviluppata un po' in tutta Italia. E fa parte questo libro di una sorta di trilogia insieme all'altro Paco, che è una storia di una droga, sempre sudamericana, è una trilogia sulla libertà perduta, su chi vive insomma rinchiuso in qualche modo. Questa è l'idea del libro. Non è un libro accusatorio o di denuncia, se non un libro antropologico, di capire l'essere umano privo di libertà, come vive, cosa sente. Questa è un po' l'idea del libro. È un libro articolato in fotografie e ci sono anche dei testi. Sì, ma praticamente è tutto fotografia, perché sono 103 fotografie, i testi sono a parte in un libricino, sono un mio testo, è un testo di Albinati, che è uno scrittore, Edoardo Albinati, che ha passato vario tempo nelle carceri insegnando, nelle carceri italiane come insegnante, e poi di Anastasia, che è un sociologo, un esperto nel sistema carcerario. Quindi sono questi tre, i tre testi, ma più che altro il libro è un'immersione nella fotografia e nell'essere umano. Che viaggio è stato da nord a sud, dalla città alla provincia? Sì, è stato un po' un viaggio praticamente che ha attraversato l'Italia. Le prime carceri sono state quelle proprio le carceri circondariali, partendo da Poggio Reale, Lucciardone a Palermo, Regina Coeli a Roma e San Vittore a Milano, che sono le quattro carceri più grandi, le carceri circondariali, dove i detenuti, quando vengono arrestati, vengono portati lì in attesa del processo, e sono enormi. Poi da lì siamo partiti con carceri più piccole, e come Capanne a Perugia, che è più piccolo, ma in realtà non è neanche tanto più piccolo, è sicuramente nuovo, un carcere nuovo rispetto agli altri che sono molto antichi. Poi sono stati in Sardegna, Isili, che è una colonia penale dove i detenuti possono uscire e lavorare in un perimetro vicino al carcere. Poi sono stato a Venezia, al carcere femminile della Giudecca, e poi sono state in realtà invece più piccole, come Sant'Angelo dei Lombardi, che è vicino a provincia di Avellino, e poi sono state anche a Bollate e a Rebibbia femminile. Insomma, è stato un lungo viaggio in tutta Italia. Per raccontare c'è bisogno di raccontare sia le cose grandi, sia le cose piccole, sia le cose nuove, sia le cose vecchie, un po' tutto. Quante strutture nel complesso e quanto tempo ha impiegato? Ma nel completo sono 10 strutture, ho impiegato 3 anni e mezzo più o meno, tra una cosa e un'altra, anche perché sono stati un po' di problemi con i permessi, perché dopo le prime carceri per un periodo mi hanno tolto i permessi, quindi ho dovuto aspettare, insomma non è stata una cosa semplicissima, però in totale è un poco più di 3 anni. Dicevi dell'attenzione sulla libertà perduta, ecco, su cosa hai focalizzato lo sguardo in questo lavoro? Ma il capire chi sono i detenuti, chi è privo di libertà, ma privo di libertà non solo nel senso di incarcerato, ma proprio chi non, per qualche motivo, un po' alla mia poetica fotografica, cercare di capire come vive chi non ha la possibilità e la libertà di vivere come gli altri, in questo caso i detenuti, e andare a sviscerare la loro quotidianità, le loro emozioni, le loro speranze, è molto legato ai sentimenti, agli sguardi, ai gesti, al loro vivere giorno per giorno. Chi sono veramente i detenuti? Questa è la domanda che mi pongo nel libro, e da lì cercare a livello fotografico chi sono veramente. Una cosa che facevo spesso con loro era pranzare nella loro cella. C'era un momento in cui ci fermavamo, io chiedevo la possibilità al direttore, quasi sempre mi veniva accordata, di pranzare con i detenuti, quindi in quel momento non fotografavo, ma si parlava, si discuteva. Insomma, c'è stato anche dei momenti che sembrava quasi che non fossimo in carcere, che si annullava un po', e quindi si aprivano molto. Che situazioni hai trovato e che impressioni ne hai ricavato? No, trovo tantissime situazioni, quelle che mi hanno colpito di più, che non sapevo ci fossero così tante, sono quelle persone che non hanno, diciamo, tra virgolette, un percorso delinquenziale, cioè che non nascono dentro situazioni difficili che poi portano a rubare o a varie violenze, ma le persone che hanno avuto un blackout cerebrale, un momento in cui hanno persone anche, insomma, che hanno studiato, comunque che hanno un certo tipo di vita che improvvisamente, diciamo, impazziscono, comunque vedono nero e commettono un reato grosso, spesso un omicidio, e poi si risvegliano da questa incoscienza, diciamo, e si trovano con la coscienza di aver ammazzato qualcuno e con 20-30 anni di carcere. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché pensavo fossero dei casi isolati, invece ce ne sono molti di più di quelli che uno può immaginare. Questa è una cosa che per esempio mi ha colpito. Poi vabbè, c'è chi invece sta dentro, ritorna, esce e torna, è un po' una problematica strutturale, perché poi quello che manca essenzialmente è che quei detenuti, una volta finita la pena, non possono, cioè non hanno una struttura, non sanno dove andare, quindi se non c'è qualcuno o qualcosa che li aiuta, al 90% poi commettono un reato, quindi tornano dentro. Però quello che ho notato è alla fine comunque tanta, tanta solidarietà. Cioè, più di quella che pensavo, comunque in cella ci si aiuta, ognuno ha i suoi compiti, insomma c'è una sorta di solidarietà, di aiuto, meno di quello che immagino, più di quello che immaginavo. Sulle condizioni di reclusione? Ma le condizioni, è un carcere, un carcere, ci sono carceri più difficili, con condizioni complicate, anche perché le strutture sono molto vecchie. Poggio Reale su tutti, ma c'è anche Regina Coeli, Ricciardone, insomma, San Vittore, questi che ti ho citato sono condizioni complicate, anche se rispetto a 15-20 anni fa le cose stanno lentissimamente, proprio lentissimamente cercando di cambiare, e in alcuni casi, ecco, ripeto, come Poggio Reale ancora c'è un grande sovraffollamento e situazioni un po' difficili, anche se niente a che vedere con il Sud America, dove, vabbè, come puoi immaginare, le condizioni sono atroci. Quindi diciamo che strutture nuove come capanne stanno un po' meglio le condizioni. In generale non le ho trovate così male le carceri italiane, a parte i casi specifici o a livello proprio strutturale. Il problema grosso è il sovraffollamento, è quello che spesso sono troppi rispetto a quello che può tenere un carcere. Una selezione delle fotografie, sarà esposta a un festival a A Perpignano. Perpignano, sì, adesso lunedì parto al Festival di Fotografia Visa per l'Immagine a Perpignano, che è il festival più importante di fotogiornalismo al mondo, e poi sono anche con questo lavoro candidato al Visa d'Oro, che è un premio molto importante che svolgerà proprio una settimana di Perpignano. Insomma, spero che questo lavoro possa essere conosciuto e riconosciuto il più possibile, perché non è tanto, ripeto, un lavoro di denuncia, ma un lavoro proprio dell'uomo, sull'uomo, quello mi interessa più di tutto. Per tutte le informazioni c'è il tuo sito internet, giusto? Sì, il mio sito internet è www.valeriobispoli.com, e poi comunque sono anche molto attivo sui social, quindi insomma sempre pubblico cose, quello che avviene durante il mio percorso fotografico. Bene. Ricordiamo il libro fotografico Prigionieri. In uscita giovedì 29 agosto 2019 per Contrasto Edizioni. Un saluto e un ringraziamento a Valerio Bispuri. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci Grazie a presto. voi. Ciao. Presto, presto, grazie, arrivederci.